attenzione al canale 10, prego. Ora, ora, ora, ora, ora. Attenzione al canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, prego. Non ce n'è per nessuno. Ciao Gianni. Buonasera, mio hermano. Allora, sì. Provandole a fare qualche collegamento. Ciao Gianni, e tu, in giro? No, sono a casa. Sono a casa, adesso ho attaccato per vedere se sentivo a Lucca, perché lo devo telefonare, ma purtroppo ho comprato un telefono difettoso, ho dovuto ritornare a, diciamo, alla ditta per aggiustarmelo. E praticamente mi cadeva sempre la linea, un telefono buono di 270 euro aggiubagati, e c'aveva questo problema che cadeva sempre la linea. Allora non ne sto aggiustando uno, mi sta cambiando il vetrino, questo qua che c'ho, e ciccia, mi uso questo per il momento, e non c'ho più numeri di nessun amico, niente, no? Proprio sono fuori dal mondo. Ho capito già. Anche io volevo chiamare perché devo vedere se è fattibile il cambio della batteria, ecco, nel mio telefono. Più tardi lo chiamo. Sempre Luca che intendo io, però. All'altro non lo chiamo. Sì, Luca Maricumio. Luca Canada. Sì. Bene. Aspetta un attimino. Che servo? No, facciamo dei collegamenti già. Bene, sta andando. È bella saturazione? No. E dove li stavi facendo i collegamenti? Io sono a radio. No, ma dico dove? Che città? Portogallo. Dove? Le Canaliate? Ma anche qua nel 10 l'ho fatto, però in FM. No, io questo qua FM non ne ho. Non ho FM, però c'ho USB e LSB, capite? C'ho AM, USB e LSB, ma AM non ne ho. Questo è un Royce vecchia era, ma sempre mi piace, guardarlo mi piace sempre. Ah, bello, Royce, anche a me piace. Infatti adesso mi volta me ne faccio dare uno che ogni tanto lo troviamo, no, a Ferrario. Quando ho tempo lo accendo, lo faccio andare, poi io riporto, lo cambio. Avevo allora, la Lafayette la volta scorsa, sempre con gli strumenti, quello argentato, non mi ricordo la sigla, bello anche, solo che vabbè, sono quelle radio vintage che sono con 4 watt, capito? Eia. No, questo qua è molto bello anche da vedere, c'ha 3 strumenti, tutti verdi, bello illuminato, bello cromato, da proprio piace, dai, vedere. E l'ho preso da un collezionista, ce l'aveva in vetrina, poi questo qui è diventato radioamatore, si stava avendo tutte le radio che ci aveva, erano tutti stazione base. E praticamente io ho visto il Royce, mi è piaciuto, l'ho pagato quello che c'era a pagare, ma l'ho preso, capito? Dai, fammi un'offerta, così ti do il DAC. Tu sei per l'agguato, l'audietto. Oi, buonasera. No, sono entrato adesso in stanza, la verità era fuori che stavo dando la medicina per le mosche. L'ho finito adesso, ho utilizzato... sempre da fare, c'è K. Aspetta, là, che mi dai un controllo, come arriva da quelle parti, guarda un pochino. Sì, qua sogno io. Sì, guarda però, guarda, ora, guarda un po'. Se lo vuoi preciso, sì, 9 più 18, non arrivi al 9,20. Se fischi sì, se parli no. Sì, non arrivo... Aspetta. Forse è freddo, ma c'è stesso adesso. Vabbè. Comunque da roba. Sì, non lo vedo. Sassari, non lo vedo. E sono abbastanza distante da te, da Gianni no, ma da te già sono abbastanza distante, quindi è un ottimo segnale, arrivano in pochi così, Gianni ad esempio non ci arriva, Gianni è 9 più 10, nonostante sia più vicino. Buonasera, Danilo da questa parte. Avete parlato in due, cosa hai detto Gianni. Ho detto ciao innanzitutto, ho detto quando ti sto arrivando. Attaccato arrivi 9.20, lì ci arrivi 9.10. Cavagava, avanti Danilo, avanti, dove sei Danilo che ti sento bassino? Come bassino? Comunque buonasera, ciao Claudio. Come bacino? Abbaccia un pochino tu grazie che mi rischi di spaccare la radio. Dopo i giochi non puoi sentirmi. Ah, oh, no, bacino di radio mi non è. Ma qui io non sono abituato a sentire radio amplificate. È una radio normale sicuramente, non bacino, normale. No, tu già sei tranquillo, l'altro che c'ha quel super segnalone, non ha giù i lampadini da stendere, giù da tutto. Dani, ti faccio risparmiare la tua luce, ti carico le batterie. Senti, non ho mai visto così tanto illuminato lo Smith. aspetta un attimino, Claudio, aspetta, Che sto accordando. Andiamo, attimino. Ora. Non è finito niente? Quasi 9 più 25 sei sul parlato adesso. Poverino. Quando scade quello, ma mi pare gli avevamo già fatto le prove quando ero a Carbonazzi. Adesso considera che io Sassari non lo vedo perché ho la collinetta dietro. Capito? Ho la collinetta dietro, però arrivi molto forte, molto molto forte. Vabbè, tieni conto che ero appena acceso questo, quindi magari fare anche un pochino di più quando... No, da lì da dove sia adesso non avevamo fatto le prove. Carbonato è un'altra cosa, quindi mi interessava quello, Ora, si sente vibrare. Guarda, da Carbonazzi io praticamente sono 2 chilometri più avanti, più in alto e più avanti, per capirci. Sì, sì, me l'avevi detto, però va bene, la zona vera e propria non c'ho presente. Va bene, riprendi già. Ehi, ehi, allora, qua già arrivi bene, anche se non alzi l'antenna va bene, si sente tranquillo. Non va bene. Danilo, il che ti conta già, questo esame tutti siamo andati. Insomma, no, stamattina mi sono messo a tingere fuori dove c'è la veranda e basta, non ho più gara, so che sacco molto di travaglio. Adesso ho fatto un mese, tutto maggio, non stop, orario continuato, 9 ore al giorno, mi riposavo solamente la domenica e sono stanco morto. E in più mi sono fatto un sabato e una domenica lavorando anche qua a casa, attingendomi tutta quanta la casa. Non ho più gana. Vabbè, là, come tutti vuole fatto. Ma io quest'anno no, l'anno scorso ho fitturato, quest'anno ho fitturato solo la cucina, mi è andata una rinfrescata la cucina perché quello di sopra si è lavata la casa e praticamente mi hanno umidito i muri e si stava staccando la pittura dal soffitto, quindi l'ho approfittato e l'ho fitturata tutta. Ma io lo stesso, avevo appena di umido, come asciugato, quanta quella qua che ha fatto, è salito un po' di umido, come asciugato e mi sono messo a tingere. No, se no dopo fa schifo il muro. Ecco. Bene, va, questo è l'altro, dai. Dammi il rapporto di questa invece per la differenza. Questa sì, poco più di 9.5. Poi, faccionella, va bene, va bene. Con questo Dani te ne faccio di meno di lampadine però. Sì, mi accendo una lampadina in meno. No, qua c'è a 9.50. Adesso volevo fare a 9.60, fisso. Quando non parli si è a 9.60, forse sale anche qualcosina in più. Quando parli invece scende. Non ho capito il motivo, però è così. Dani, ma io ti arrivo più di 9, sì. Sì, claro, tu mi arrivi 9.20 con picchi di 9.30. Minchia, papà. Vabbè, l'altezza c'è, non è che non c'è l'altezza. Sono praticamente abbastanza alto. Solo che l'apertura verso Sassari è un po' più chiusa, verso le altre parti non c'è niente da dire. Avanti Gianni, riprendi, dai, 10 minuti poi io vi lascio e me ne vado. Vabbè, interessante che ti sentiamo, la burla, se viene a fuori. Ti sentiamo anche bene, ho sentito, quindi non c'è problema. Cava cava, e vabbè, dai, io niente, mi sto usando lui adesso per farlo girare, ma poi sto vedendo il gas. Ma chi io? Sì, io sono già, te lo compro il gas. Il gas? No, no, ti ho detto, fammi un'offerta per il DAC, mi è qua acceso a fianco a me. No, no, no, non si toccano, quelle due radio non si toccano, lasciale stare dove sono. No, non sto entrando io, già entro così a salutarvi e basta, ma no, non è che mi interessi più di tanto. Antenne a 2 metri da terra sul muretto di recinzione, figurati tu, non mi interessa. Va bene, dai, salutato vi ho salutato, sentito vi ho sentito, abbracci e baci a tutti e ci sentiamo. Vado a sedermi fuori veranda, fumo una sigaretta, ciao. Benissimo, esatto, quasi 9, 10 con qualche picco 15. E già va bene, sì, non voglia, se vedi dopo messa l'antenna. Infatti con il genero sempre, no, mettiamola su, mettiamola, lasciala stare, lasciala stare Rovei, non me ne affutti nulla, ma cosa me ne affutti? Lasciala Rovei, giusto per salutare gli amici, già va bene, non ha più intenzione di fare baracchi, baracchini, ma così vera la strada, figurati. La notte se ti avvicini un po', se no essendo sul fianco non si nota neanche. Va bene, no, ti, no, non ne ho voglia di stare fatti, mi siedo fuori un po' di veranda, c'è ancora un po' di sole, e mi fumo una sigaretta, mi bevo una birrettina fresca, dai, col mio vicino. Ciao a tutti, divertitevi, ciao. Andò bene, va bene, Clara, siamo sempre qua, non problema, dai, riprendi, dai. Sì, ok, dai, sì, Clara, già ci sentiamo. Fammi sapere comunque se ti serve qualche traliccio. No, va bu. Dai, già ci sentiamo, Clara. Ciao. Guarda, Dani, per dirlo a te, testimone c'è il fratello di Luca, perché tutte le cose me le ha portate lui, tantissimi viaggi le sto facendo fare, ne deve fare uno anche questa settimana. Le direttive che sono avanzate, le ha giovate a pezzi. Tutti a pezzi, ho recuperato i tubi, le cose mi servivano, resta giovato tutto a pezzi. Viva di due cipongo dralici. Non manco né VHF né UHF. È tutto dentro le scatole nel Gavirio, nel magazzino del Gavirio. Fatti il conto, tu si agitazione buoni tralici. E non in picco prima. Non basta di una stagione lampada, bannuta la butta. Va bene così, va bene così. Un saluto e su che andiamo. Ciao raga, divertitela. Ricordati da lì che c'ho sempre quello strumento tuo a casa. Ogni tanto mi serve, ma se ti serve fai un fischio, capito? Ehi Acla, non ti preoccupare. Tu per quello se senti qualcuno, vendiglielo. Non ti mettere problemi. Già me lo ricordo io che c'era quello strumento. Se mi manca qua vuol dire che ce l'hai tu. No, vabbè, no. Se senti qualcuno, vendiglielo, senza problemi. Ok, Claudio, ci sentiamo. Comunque le antenne e le direttive mi potevi avvisare prima di distruggerle. Dai, dai, già non fa niente, già ci sentiamo. Ciao, Claudio. Sentiamoci al telefono. Sappi che io a volte non rispondo perché non è che ho tanta linea, Sto aspettando che agganci un ripetitore, qua abbiamo già fatto la domanda. Ok, la richiesta più che domanda, quindi adesso ce lo metto. Ci sentiamo al telefono e qualcosa c'è per te, non ti preoccupare, lo sai. Dai, ci sentiamo, ciao a tutti, Tino, riprendi. Dai via. Andavè, Dani, batterie carica a scaricamento hai per caso? No, magari, quelle lì no. Quelle lì me le sogno anche io. No, non ne ho di quelle. Comunque, mi ho chiesto per quelle batterie al gel e mi hanno detto che sta chiamando al tipo, sta provando a chiamare al tipo a vedere se ne ha ancora e non mi ha dato ancora risposta. Domani provo a richiederglielo. Comunque c'ho un sito dove c'ho l'elippo, però l'elippo costicchiano un bel tino, quelli lì picchiano un bel forte e non conviene. Anche perché di quelli lì devi fare molte celle per arrivare a 12 volt, non sono a 12 volt quelle singole. Per fare 12 volt devi metterle tutte quante in parallelo e non fa, non in serie. Se vuoi te lo passo quel link e così vedi e immagino un pochino come studiartela, da controlli lì possono vedere carte, non possono stare sempre in carica fissa, quello è, e non possono scendere neanche al di sotto del 30%. Boh, io provo a passarti il link e poi vediamo, da. No, ma tanto non mi devo mettere a costruire niente, a me mi serve per metterle in un mezzo come batteria da servizio, capito? Quindi devo attaccarci un inverter e niente, solo per quello. No, dai, le lipo così sono sprecate, così che non è per quello che ti sto dicendo. Comunque queste al gel provo a chiedere, vediamo, domani provo a richiederglielo e vediamo cosa mi dice. Perché mi ha detto, deve andare babbo a chiedergliele, perché ho sentito che già ne ha. Però ancora non mi ha risposta. Faccio, vediamo cosa mi dice domani e ti faccio sapere. D'accordo, fatti girare il mio numero da Claudio. Non c'è problema. Così mi chiami, dai. Ok, da. Andiamo bene. Gianni. Ehi, cosa ti fai il camp? Cosa ti fai sul camp, tio? Adesso vediamo, dai. Tu stai girando per prenderlo? Sì, già. E tu? No, io no, ancora. Sì, la mia compagna già piace, ma stiamo valutando, dai, adesso ancora. Non lo so se lo prendo. Un'idea c'era. Ma sì, fai, non ti preoccupare. Ho già fatto, lo devo ritirare. Già mi piacerebbe, già mi piacerebbe. Sì, io mi sono già organizzato, va. Lo devo ritirare sabato. Fuori? Sì. No, è già qua però, è già qua. Dovevo fare delle piccole cose, così giusto per darlo. Sono andato a vederlo, c'erano delle piccole cose da fare e quindi non si male. Che motore c'ha? Un Ducato, un Gran Duca 6-7. Sì, Ducato già è veloce, già cammina buono. Sono molto, hanno una bella sterzata e tutto. Ma già sono bene. Lo sai cosa è importante? Il frigorifero d'estate che sia bello grande, quello lì ci vuole bello massiccio, di modo che ci puoi mettere i bibiti e tutto. Ci vuole frigo, ci vuole forno, questi sono 7 pozzi, quindi. Ah, non è tutto allestito? Ah? È già allestito come lo stai prendendo, lo devi mettere tu. Ah, ho già allestito allora. Va bene, dai. Vicino a casa ce ne sono diversi belli, sono Ducati, non sono, sono Ducato, non sono di quelli ultimi usciti, ma sono ben tenuti. Guarda, questo signore anziano ci mette tutto il cuore, c'era un mese pulendolo e facendolo, facendogli le righe di nuovo, tutte le righe in perfezione, gli ha tolto il paraurti, l'ha verniciato, l'ha fatto tutto bello. Ci tiene un bel questo qua. Sì, ma poi sono macchine che non hanno tanti chilometri, capito? Magari avranno anni, però non hanno chilometri, il motore è una bomba e caspita, no, l'ho visto, l'ho aperto il bar motore. Io ormai quei motori li conosco perché ci lavoriamo anche con quei mezzi noi, no? E niente, mi sono deciso, la franciccia, meglio un gusto che 109 anni. Ma è facile. Poi tu c'hai anche i ragazzi che sono piccoli, tutto quanto. È bello farli girare, farli vedere il mare. La mattina alzate e trovate il mare davanti, non è poco. E allora? Ma neanche tu ce l'hai, così è. Dani. Dimmi, che ero controllando le cose, la radio, il filtro della radio. Anche tu ce l'hai, vero? Che cosa? La risposta, il camper. Sì. Mi pare che ti domandi a Trabocchetto, ce l'hai anche tu. No, sì, già ce l'ho dal 2010, ce l'ho il camper. Insomma, l'anno scorso mi sono preso uno nuovo, che è un Challenger, un 7,10 m, è gigante. È anche molto comodo questo qua, confronto a quello di prima. Ah, bene, bene. Ho trovato un amico ieri proprio che ce l'ha, il Challenger. L'ho visto lì alla rotonda, ci siamo provati. Questo qua è il Magia 192, 192. Controllo su internet, guarda quanto è spazioso. è gigantesco. Ce ne sono anche di più grandi, però questo qua mi piace molto. Di gemelli fino adesso ne ho visto uno a Fiume Santo, di una coppietta di due vecchietti. Infatti gli ho detto a mia figlia, mi ha detto guarda papà, è uguale al nostro. Gli ho detto sali, guarda se è uguale. È salita, è scesa, tata ma è uguale identica al nostro. non si può credere questa piscina che secondo fa vita. Comunque di gemelli ne ho visto solamente uno, non ne ho visto altri. Sicuramente già ne vedrò degli altri uguali. Bene, cos'è doppia finestra? Adesso vabbè, c'ho il computer spento, ma non ho voglia di cercare. Quando c'è tempo ti metti a guardarlo. Comunque anche dalla strada già si vede il mio. Ma sai che sono passato? Ma tu aspetta, non vorrei sbagliarmi. Senza stare lì, salendo dalla Platamona, faccio il curvone, sei sulla destra? No, salendo dalla Platamona sono a sinistra, dopo c'è il curvone. Dopo sulla destra ti viene quando sei già sul ponte. Allora già l'ho visto, sì. Ho capito, avete sì. Infatti sono passato ieri, non sono passato anche io lui ce n'è, non sapevo che era il tuo, non sapevo neanche che abitavi lì. Dagli antenne già te le puoi immaginare. Che ho fatto giudizio, buonasera a tutti. No, quando vedi qualche novità basta dirmelo. No, adesso ci abbiamo preso questo e per adesso ci tiriamo questo, anche perché abbiamo costicchiato un pochino, si fa per dire che era quasi nuovo. E in più mi sono messo le cose che volevo io, tipo parabola, televisore e tutto quanto il resto che c'è là dentro. Vabbè, Gianni, quindi attrezzati. No, io ho un ruolo del team, 67, sempre traducato, doppia di niente, è enorme lo stesso accidente. Ecco, Brecco! Avanti Brecco Antonio! Buonasera! Allora, perché non ti ho visto dopo gli abiti? Vabbè, tu guardo, sei un guardone, sì. Perché guardone? Se guardo dove abita la gente, sei un guardone. No, mi è capitato, così mi è capitato. Sto scherzando. E tu sai che io sono sempre in giro. Già va bene, Gianni, riprendi. Ciao Antonio, buonasera. Qual buon vento, alle 7:30, come va? Ah, oggi è festa, è vero, oggi non è lavorato. Oggi è la festa pure a casa. A casa, luce, messo, tutto qua. Eia. Va dato. Capa. Adesso mi sto preparando, che forse c'è una sorpresa. Non voglio dire niente, ma c'è una sorpresa. Ve lo dirò quando ci sarà l'evento. Va bene, Antonio, va bene. Non dire le cose prima, che se no puoi portare la sfortuna. No, non dico niente io prima. Ci sarà un evento, ma non lo dico. Antonio DJ. Cappa. Adesso vediamo. Non per questo mese, ma vediamo l'altro. E via. Vediamo un po', io ancora non voglio dire niente. Dai, cos'era il challenger numero? Maggeo 192. Vediamo se non lo va. Devo mettere foto adesso, no, ma va, aspetta. Il tuo va sardato. E allora? 7 punti. È buono. Sardato è buono. Quindi devi essere al tuo fuori a prenderlo. Aspetta, no, l'ho visto però. L'ho fatto cercare, guardato, mi è piaciuto e ciccia. Allora, vediamo un attimino. Ma non è una marea, ah, bello comunque, sì. Quale tipologia tipo voglio io? Simile. Solo che tu hai la porta centrale, giusto? Diciamo di sì, da appena in avanti, comunque centrale, da. Ho capito, ma io ce l'ho dietro, al posto del letto, e poi c'è la porta. faccia di doccia separate e tutto quanto. Sì, sì, e beh. Perché quelli con la doccia dove c'è il water è una paranoia. No, non va bene, non mi piace. Mi sa di sotto. Sono quelli che hanno il posto, quelli che non hanno il posto, quindi sicuramente se tu allarghi da una parte e restringi dall'altra, non è che un armadio meno ci metti, però già va bene. Però non vorrei gli interni qua, ma solo gli esterni. Il Granduca, Roller Team 6-7. Ah sì, ho capito qual è, sì. Vabbè, qua ce ne sono varie, non riesco a capire qual è la... Cos'è, gli occhi a goccia, il camper? Sì, quello lì è. Ma tirate in su oppure goccia allungate? No, allungate. Quella allungate al lato, quello lì. Ah, ecco, allora, l'ho provato. Perché l'altro è più moderno, credo, vero? Quello che c'ho io è fino al 2006, poi quello che è con le gocce con i fari più alti è quello del 2007 in poi, che è metà 2006 in poche parole. E in poche parole, quello lì è dal 2006, la metà del 2006 in poi, quello con le gocce con i fari più alti. Ma adesso ho messo anche l'anno, quindi mi ha dato tutto quello, però l'interno non mi va. Entra direttamente su una foto di un venditore, già si vedono gli interni, intanto sono più o meno quanti uguali. L'unica modifica che ha il nostro è quello sotto l'avello, che c'ha il cassettone che fa dall'avello giù in fondo fino all'altra parte della cucina, sotto la finestra in poche parole. Faccio come apri le immagini, già te ne accorgi la differenza della lunghezza. Vabbè, devo entrare da un rivenditore, però aspetta. C'ha due cassettoni giganteschi, sono più o meno un metro l'uno di lunghezza, per quella larghezza lì, mi sa che è 50. L'altezza è lo stesso, l'altezza del mobile è divisa in due perché sono due cassettoni. Ed è gigantesco, ci stanno le bottiglie dell'acqua in piedi. Bello. Vediamo. No, è bello, guarda. Andiamo bene. Ma poi è anche comodo perché dietro c'è il letto matrimoniale anche già pronto. Più quello in mansarda. E sei a posto. Non devi più smontare la dinetto, assillarti a fare il letto. Faccio così, siamo più tranquilli. Ci vai giù, un bile di gocche e sei a posto. Sì, dai, convolgiamo Gianni, io. Ciao, dai, stavano chiamando il cassetto bianco, stavano facendo un break, dove lasci 3 ore, già che devi farlo entrare, si uscivo. C'è la Medusi. Perché quando c'è un argomento che ti interessa, se hanno pazienza, infatti ho rilanciato. Sì, no, vabbè, non c'è problema, avanti bombolo. Campo, vabbè. Andiamo qua ad ascoltare. Vabbè, riprendete allora, dai. Kappa. Anzi, comunque non sono, è che mi capita. Io lo sai che sono sempre in giro, sono. Ma sono dove sono gli antenni di tutti, so. Anzi, la spia sovietica. No, ma non è che me lo dicono, no. È che lo scopro così, lo scopro, perché sono sempre in giro. Sì, già lo so, perché anch'io quando lavoravo con il camion, passavo, mi accorgevo delle macchine che c'erano, tutto quanto. Non lo fai apposta, ma lo spirito di osservazione ce l'hai, normale. È normale che quando giri guardi e lui ci farebbe baida. Quindi da lì, quando sei in partenza col camper, quando le fai le ferie? Le ferie sempre ad agosto, speriamo che quest'anno qualche settimana in più me la dia. Vediamo. Di solito quanto se ne dà, 15 giorni? Di solito loro chiudono 15 giorni, però una settimana in più me la prendo sempre. Se a volte non c'è nessuno che c'è un mese di ferie da scalarmi, da togliermi da mezzo ai piedi, a volte ne chiedo anche un mese. E a volte me le dà, a volte non me le dà. Però la maggior parte mi faccio sempre 2 settimane più una mia. A me me una volta mi ha chiamato e mi ha detto di principale, ascolta, hai 80 giorni di ferie da recuperare, non ce la faccio a dartele sinceramente, se vuoi te le pago e me la giù fatti pagare. E lui è già attaccato pure alla radio. Brecco. Oh, quanto il break! Buonasera a tutti, non ho fatto ascolto, ho sentito soltanto a Danilo, a Gianni e a te Antonio. Chi era con la chitarra? Il mitico Giovannino Giorno era. No, dico di tu che hai messo la musica, non erano. Faceva forse Luca. Già lo so già, ma. C'era col telefonino così. E altri ci sono oltre a quelli che ho chiamato. Ciao Roberto. Ciao Tito. C'ero anche io, va bene. Ciao Roberto. Ciao Danilo, ciao Gianni, avanti già. Ciao Roberto, mi sentite, dai, buonasera anche a te. Sono con il Royce, come vado? Cosa hai detto? Sto modulando con il Royce adesso, come vado? È forte, è potente. Cappagatto. Cosa c'ha? Che se mi metto la mano non fa un ronzio, se non fa questo ronzio deve essere che roba di massa. Adesso rimetto qualche cavo di scarico, perché se mi metti la mano sul coperchio non lo fa, se invece la togli fa questo ronzio strano. Io vado a mangiare, ci andiamo dopo. Ciao, buon appetito. Ciao Anto. Tu ce l'hai, vero, Luis, Robè? Sì. Ma lo c'hai con gli altri strumenti? Sì. È bello, eh? È un bel apparecchio. Sì, esteticamente è bello, però sinceramente secondo me il patch è migliore, ma di questa ricezione è un po' meglio, però preferisco il patch come trasmissione. Ricezione forse è meglio il Royce, però la trasmissione mi piace più il patch. Il Royce, quello che ho io, esce con 7 watt, ha una bella trasmissione anche, esce con 7 watt. L'unica cosa che c'è è questo ronzio, quando mi metto la mano sul coperchio che non l'ho fatto. Ma è lui su base, io c'ho, tu hai già base o cosa? Sì, in base c'ho io, quello con tre strumenti verdi, AM, USB e LSB. C'ha 40 canali per banda. No, il mio è normale, c'ha solo 40 canali e come si chiama? No, il tuo con l'orologio. Sì, l'orologio digitale c'ha il mio. Allora tu se togli i canali con un pulsante e togli i canali metti l'orologio. No, questo non ce l'ha, il patch ce l'ha, l'orologio digitale c'ha il timer, ma il tuo l'orologio è a lancette, è analogico o digitale? Digitale. Perché fanno anche il Royce con le lancette, no, il patch c'ha l'orologio digitale, questo no, c'ha solo i tre strumenti, la potenza, il modulometro e il rosmetro e basta. Non c'ha nient'altro, però è bello, quello con le fiancantine in legno, è nuovo, proprio a 110 il mio fusato, c'ho l'assumato all'esterno. No, il mio va a 220, va a 220 a 12 volts, dell'alimentazione, adesso sta andando a 12. Nulla, no, allora vale il modello più recente del mio. Ok, facciamo entrare a Tino, perché l'abbiamo lasciato in stand-by, e poi a Danilo. E non c'è problema, fai pure ferro, che tanto sto guardando anche due cosette qua. Sul PC, dai. Rimango in quel rix anche io, dai, fate riprendere Danilo. Vai Danilo tu, allora vatti a te. Andate tranquilli, parlate di radio così vi ascolto un pochino, che mi sto facendo un giretto anche su col cellulare. E io non c'è nessun altro oltre a noi? Ho detto sì, no, siamo noi. Ho detto bisogna farsi un po' di cultura su questi cap per provare a comprarli. A me già mi piace, però prima mi voglio informare un po'. Io ne sto rientrando al campo, oggi sono andato a San Leonardo, poi ho fatto un giro di Mosa, a tutti quei paesini che c'erano di lì, dalla strada vecchia sono passando da quasi San Leonardo, subito dopo tra San Leonardo e cose, ma come c'è una stradina molto stretta che ti porta a fare tutti quei paesi, Trenton Ruggers, Cuglieri, quella zona lì, c'è un panorama spettacolare. E poi sono andato a Mosa e poi sono rientrato a Sassari. Domenica invece sono andato su a, come cacchio si chiama, sopra nell'Embara, non mi viene, a Valliciola. Ma quale stai usando? L'ultimo che hai preso, vabbè. No, quello è quasi finito, sto facendo gli ultimi ritocchi all'impianto elettrico. Quello no, ancora non l'ho utilizzato. Quello, il vecchio, il solito. E come motore, vabbè. Sì, a Guglia, un 2005 aspirato, gli ho sostituito il cambio, ho messo il cambio nuovo a 5 marce, molto più silenzioso, più efficiente, insomma secondo me anche un pochettino di meno, perché il motore gira meglio, lo gestisce meglio dai, rispetto a 4 marce con l'overdrive, anche se c'aveva 2 marce in più con quello, però erano secondo me un po' troppo corte. Questa invece la quinta è molto lunga, ti permette di, soprattutto in rettilinea, di andare più sciolto il motore. Cos'è, vabbè? Allora, io ho un vecchio Hellag con motore motorizzato Transit 2005 aspirato, ora è nuovo, nuovo, fiammante il camper. Dopodiché ne ho preso uno che l'ho trasformato, un furgonato dalla Corso, dalla Ducato 2008 Ducato, aspirato sempre, l'ho preso, quello è un ottimo oggetto, quando se capiterà magari ve lo farò vedere, è una cosa, un progetto mio, eccetera eccetera, un bel pezzo, ha fatto la funzionalità, due posti però l'ho fatto. Vabbè, infatti uno si prende in base a quello che c'è bisogno, nel senso che volevo rispondere anche a Gianni, perché anche lui è in fase di cerca. Già, secondo me è una cosa che ti deve piacere a primo impatto anche, e proprio per quanto riguarda le tue comodità, quanti siete, in due, in tre, in quattro, quello devi guardare anche. In due, poi ho conosciuto tanta gente, ho camper che ha preferito, anziché il mansardato, ha preferito il semi integrale, perché essendo in due magari, sai, letto in coda, è in base alle loro comodità. Io ho fatto comprare tantissimi di camper, tanti, e quello che ho fatto comprare da poco a questo amico mio, lui era un due posti su meccanica scudo, ma bellino, proprio funzionale al massimo, ci ha venduto l'altro giorno e si è preso uno nuovo, un furgonato, quattro posti, bellissimo lo stesso, nuovo, però l'ha acquistato questo, e l'ha venduto abbastanza bene il suo, anche se era, non era nuovissimo di età, però era funzionalissimo e bello, poi l'ho fatto prendere grande a diverse persone, anche il mansardato, come ha detto Coso, sinceramente il mio è mansardato, ma non te ne fai nulla, se vai a notte non c'è famiglia, cioè i miei sei posti, se no non te ne fai proprio niente, è uno spazio inutile, infatti il nuovo che ho preso è piccolo, è proprio per andare omologato autoveicolo, non è autocaro, ma per cui posso andare dove voglio con questo. Sì, e quello che stavi facendo quando ero venuto in officina adatta è quello lì, Robe? Sì, è finito adesso, mi manca l'ultima fessina, siccome ho messo un pannello di controllo di quelli intelligenti che ti danno tutte le funzioni, il consumo istantaneo, consumo medio, pannelli solari, c'è tutto quello lì, ho fatto tutte le cose, è un due posti, nasce un pozzo che si trasforma in due posti, cioè c'è un divano, lo tiro e lo trasforma, è tutto un progetto mio, è bello, dai, se capita te lo faccio vedere Dani, è molto bello, chi se ne intende me l'ha anche vantato, perché è un bel progetto, proprio la funzionalità massima c'è quello lì. Non ce ne sono di cose inutili, cioè molte cose nei camper sono cose che magari non tratti mai, cos'è, questo c'ha tutto, frigo a compressore, eccetera eccetera, fatto di quelli estraibili, tutto lo spazio sfruttato al 100%, ogni angolino c'ha le sue posizioni, le sue cose utili, non ti rivelo di avere cose inutili, infatti la stufa non l'ho neanche messa, volendo posso mettere quella a gasolio, quella piccolina che ne stiamo installando tanti, noi ne abbiamo fatto almeno una diecina in officina di questi, e qualche esperienza ce la siamo fatta, però tanto io d'inverno non ci vado, non me ne affutti nulla, lo lascio così, senza stufa, praticamente c'è il riscaldamento dell'abitacolo, diciamo della macchina. Comunque se ti serve un verbasto già ce l'ho io. No, per il momento no, adesso addirittura devo tirarla fuori nell'altra, in questo qua la stufa la tiro fuori e mi metto il congelatore a compressore, tanto è una cosa inutile, non aggiungo mai trattato ed è uno spazio sprecato secondo me. Verbasto, quanto lo stai vendendo? Ci dobbiamo mettere d'accordo per quello, Robè. Comunque di quello idro, quello che ti scalda l'acqua, in poche parole quello glielo metti fuori e porti solamente i due tubi con il radiatore all'interno, la ventola, l'aria calda ce l'hai come niente, anche due radiatorini ti puoi mettere, di quelli che si usano in bagno per appendere la roba, ti puoi mettere anche di quelli, perché io l'ho provato in garage e ti dico che l'acqua manco la toccavo. radiatore in alluminio di quelli che si mettono dentro casa, l'ho piazzato, non riuscivo manco a appoggiare la mano oltre 5 secondi sopra. Tu pensa quanto è bollente l'acqua. Comunque l'ho provato ed è una bomba. Fuma che è una cosa da non credere l'acqua. Sì, sì, no, ti serve, ma chiediamo un po' in giro se serve a qualcuno. Anche tu ce l'hai da nel campo, che cos'è il tuo? È un Challenger gemellato con Ford Transit 2.5-6 marce turbo. E anche il mio è gemellato. E tu Tino, camperai? Un Roller Team Fiat Ducato 2008, però mansardato, per la famiglia. Cos'hai detto? Mansardato, così ho capito. Sì, mansardato. Sì, sì. Adesso i nuovi sono belle cose furgonatiche, che ne ho visto certi, che costano tanto. Mi Eugenio c'ha un camper allucinante, ti compri un appartamento, c'ha un motorhome Eugenio, una cosa da fantascienza, che c'ha anche l'aria condizionata a coso, con l'impianto a gas, neanche elettrico, con l'impianto a gas, proprio l'ultima evoluzione, congelatore, bellissimo. Quello che c'ha lui è una cosa col lago. Sono Stiamo parlando già di fantascienza rispetto al mio. Sì, vabbè, ma parliamo anche di prezzo. Sì, no, infatti vedete, lui c'ha il garage, detto, ci fa una moto grande dentro. Io la uso, che presente il mio è un giocattolo, però la funzionalità per quello che serve a me ce n'è per i pulci. Poi, quando voglio andare in due, uso l'altro. Infatti ho predisposto l'altro proprio per quel motivo. Non ho nessun problema di entrare, perché il limite del camper è quello. Non ti va di entrare, un po' di pulci non ci puoi andare. Infatti la prima cosa che ho fatto, ho trovato un mezzo speciale, uso speciale, ho omologato autoveicolo, ho il laboratorio mobile e l'ho adattato alle mie esigenze, perché nel libretto è omologato come laboratorio mobile, e per cui ho fatto quello che interessa a me, gli ho fatto delle modifiche che interessano a me, posso andare come una vettura perché siamo entro i 5 metri, non ho nessun limite per dire dove c'è scritto no camper e no caravan, io posso entrare, l'ho preso apposta per quello, perché io vado in tanti posti che non ti va di entrare, per dire, se va un esempio più vicino a Santa Teresa devi parcheggiare fuori, se no non ti va di entrare. E non parliamo della zona da Olbia in poi, di lì è tutto quanto vietato. Avanti il nuovo Atatino. Lo so, vabbè, giustamente uno poi cerca di andare camper. Santa Teresa ci ho fatto troppo tempo, lo conosco benissimo. Il limite, si prende un motorino, una macchinetta, ciccia. Adesso anche all'Argentiera, l'anno scorso non avevamo fatto niente perché c'era il Covid, ma due anni fa hanno messo una sciarada di multe, 500 euro a tutti, perché all'Argentiera ci andavo spesso, io anche vicino, c'è una brezzolina tranquilla, ti fermi, non è fastidioso, anzi anche se non ci sono alberi. Eppure cacchio, hanno messo le multe a tutti, 500 euro di multe a tutti. Ah sì, all'Argentiera non ci puoi andare. Allora, io sono andato anche da poco, l'anno scorso ci sono andato, però due anni fa, se tu ti andavi ad aprire una finestra, è come stai facendo camping per loro, la forestale ha messo la multa a tutti, perché lì ci andavano un sacco di gruppi camperisti, facevano la carovana, eccetera, hanno messo la multa a tutti, solo tieni chiuso, ci puoi andare e non ti c'è niente nessuno, però dal momento che abbassi la scaletta, tu sei già in contravvenzione, poi non dico se ti fermi come si fermano tutti normalmente, ma appunto io per dire vado tutti gli anni, vado a Radio Rosé, quelle zone lì, a Cala Liberotto, lì c'è una bellissima finestra sul mare, bella, che tra l'altro prima era gratis, adesso poi hanno messo a pagamento, sono andato quest'estate, boh, caravan e camper non possono più entrare. Ho detto, ma è possibile per andare al camping di Saprama a fianco, se vai a Pitulungu, se vai cacchio ad Orgali, qualunque posto non ti fanno entrare, devi sempre passare lontano. Vabbè. Bisogna studiare un po' di aria camper e poi sei tranquillo. È un'esperienza che si dovrà fare. Così, se devi andare a cosa? A Calagonone, a 3 km devi parcheggiare, a cosa? A Calabrandini che non ti fanno entrare, puoi solo passare davanti di lì, ti vai a giro e te ne dorri, prima potevi entrare a Calabrandini, adesso non ti fanno entrare. Per legge, però puoi aprire l'oblò che c'è sopra, quello lo puoi aprire senza problemi, perché non è un ingombro del mezzo. L'unica cosa che non devi oltrepassare è l'ingombro del mezzo, quindi l'ingombro oltre gli specchietti. Sì, avete parlato in due comunque. Sì, è vero, ma questo capita anche a Estimano, a Fazzona, perché ha avuto conferma anche personalmente, non è quello il problema. E tu pensi che nel mese di settembre, fine settembre, quasi inizio ottobre, eravamo in tre, allora avevo la rotta, c'erano tre camper, uno a Estimano, uno a Fazzolo, io e mezzo, ti puoi immaginare, e poi sono venuto a rompere le scatole perché effettivamente avevo il vetro, vabbè, tramite altre conoscenze, hanno lasciato perdere, però intanto sono venuto a rompere le scatole. Ma perché abbassi la scaletta, tu sei già in contravvenzione, si apre il vetro uguale, se lo sollevi appena la finestra, non dico a spalancare, a mettere tende e coso, si muove la contravvenzione, se trovi il balordo. Io non capisco questo odio verso i camperisti, cacchio, ti ripeto, non per dire io, ma la maggior parte dei camperisti sono persone ordinate, pulite, anzi mettono in ordine il territorio, al contrario di chi ti canta in abbattamona con le buste in pinetta e lasciano tutto in giro. Hai ragione, anche perché io ho fatto un ragionamento, un barrancello, gli ho detto, ma scusate un attimino, detto, vedete queste tende che ci sono, ma secondo voi la cacca, la pipì, dove cacchio la fanno? Io almeno la porto a casa, voglio dire, fatemi capire. Hai detto la cosa più sensata di tutti. Vai Gianni, tocca a te. Sto pensando bene a comprare il capo, dopo che sentito multe e questo e quell'altro, mamma mia, nove luoghi di pulito. Allora la mia prima multa Robert l'ho presa a Pazzona ed ero con la rotta, ma la rotta aveva anche attaccata la tenda, sai la classica tenda che si mette nella rotta che sembra una casetta, no? Sì, ero dentro col tavolino, la berretta fresca, mi hanno fatto un servizio fotografico da fine del mondo, 1200 euro di multa, meno male che tra virgolette ti ripeto c'erano delle conoscenze in corso, è andata a decadere questa cosa qua. La seconda multa invece era di 250 euro, sempre per il solito motivo, giustamente ce l'hanno un po' contro i camperisti lì in quella zona, perché ti spiego subito quanto sono venuto a sapere che vogliono fare un'area camper e la vogliono organizzare, capito? Quindi tu di libera lì non ci devi andare, per il momento. Certo, la logica è quella, sempre questione di monedi, di soldi, così a Saprama, ti sto dicendo, se andava sempre, alla fine ho detto, ma per quale motivo non si può più entrare, anche pagare, no, si sono lamentati quelli delle ville, ma cosa c'è da lamentare quelle delle ville, perché mica fanno a macello, sporcano, è tutto ordinato, non fanno nessuno, tra l'altro ne entravano pure pochi di qua, niente, a me mi è andata bene, invece ti non sai dove, ad Orgali, due volte mi ha fregato, sono entrato dentro ad Orgali e c'è scritto in grande che non si può entrare, ho fatto tutto il paese, sono passato nel centro storico, c'era la vigile urbana e mi ha detto, dove sta andando lì? Come sta andando? Ma non ho visto il cartello, no, guardi, mi dispiace, non l'ho visto, non ci ho fatto caso, è bella in grande, lei qua non deve passare, cosa devo fare? Non posso tornare indietro, gli ho detto, no, indietro non può tornare, fai conto, è come che passi a Corso Vittorio Emanuele con un camper, non sapevo da parte, alla fine mi hanno lasciato andare, ho detto, vada. La via era più bella, a Porto Rotondo, divieto di camper, ci sono sceso fino a giù al porto, la guardia mi ha inseguito suonandomi, ma poi mi si è affiancato quando ero giù al porto, mi ha detto, ma lo sa dove sta andando lì? Ho detto, sì, e no, dove sta andando? Guarda che qua è divieto per i camper, me l'ha detto, come divieto per i camper? Sì, è divieto per i camper, qua i camper non ci possono passare, gli ho detto, per quello che le strade sono piccole, basse, e ci sono quanti gli alberi che coprono, ma ho detto, per quello è, comunque non l'ho visto il cartello, perché ero dietro un camper, lui ha tirato dritto e ho girato subito a destra, comunque quando sono uscito mi ha fatto strada lui, questa guardia, quando sono uscito fuori dal paese ho guardato, c'era proprio il cartello di vieto di camper e l'obbligo del camper per andare dritto nella panoramica, invece io ci sono entrato dentro il paese, la roba di risate mi sono fatte il giorno, comunque molta gente, i camperisti non li può vedere perché pensano che scaricano, cagano dappertutto, quello è quello che pensano la gente dei camperisti, e invece quello che dico io è la gente che dorme in tenda quando va a pisciare, a cagare, e poi tutto quanto il resto, dov'è che la fanno? Noi la facciamo dentro un WC chimico e loro? È quello lì anche da vedere. Comunque già ne abbiamo, noi facciamo anche parte di un'associazione campiristi, tutte quante le volte che vediamo cartelli così improvvisati, divieto di casa, camper, io la prima cosa che guardo è la concessione, se c'è dietro. Se c'è la concessione è un ok, però la segnalazione la facciamo lo stesso all'associazione camperisti. Se non c'è la segnalazione, la concessione, io prendo e entro direttamente. È sempre una strada, è una strada che non vieta niente. Come ci può passare l'automobile, l'autovettura, ci può passare anche il camper. L'importante è che non ci siano strade che siano troppo strette per il camper, o se no te lo distruggi, e che abbi posto anche per fare manovra giù, quello sì, però tipo le sbarre a 2,20 m, dopo l'altro cos'era per il divieto del camper che non mi ricordo, tipo la catena, quello lì è assolutamente vietato, non le possono mettere. Sì, sì, ce ne deve essere la delibera, però quando te trovi di lì, cacchio, cosa fai? Dici, ti metti a fare burro in mezzo lì, non ci vai. Se tu vai a Calabrandicchia è così, è una cosa allucinante, è un mangiasoldi, una miniera d'oro, proprietario, l'ex proprietario della Palmera, c'ha tutti quei territori lì, è multimilionario con queste campe. Prima i campi li facevano entrare sino a 3 anni fa, pagavi 30 euro al giorno e ti facevano entrare. E invece adesso neanche i campi ci hanno messo con l'affare basso, in modo che tocchi, se per caso forse, e non ti fanno entrare. A parte che una cagata, era tutto in mezzo alla polvere, il mare è spettacolare, ma per rimanere col camper era uno schifo, perché era in mezzo alla polvere, non c'erano né alberi né niente, però ci andavi soltanto per vedere il posto e basta. Poi non parliamo di altre, molte volte io invece mi intrufolo in quei residence, lì trovo il primo buco e vado alle farfalle sempre lì vicino, prima di Coso, San Teodoro, con le zone lì, prima di Calabrandichi, Capocolla a cavallo, lì c'è una specie di spiaggetta piccolina, riesco a entrarci di dietro, me ne metto di lì, apriamo parcheggio che c'è, vado, e lì non mi ha mai rotto le scatole nessuno. Di nuovo Attino. Io sto chiudendo, dai, saluto tutti cordialmente, buona serata a tutti. Ciao. Eccomi. Figlia. Ciao Gianni, ciao. Ma fai entrare Antonio che è appena entrato. Ciao, buona serata già. Capo, ciao Gianni, ciao. Figlia, ciao Gianni, vai Dani. Sì, ciao Gianni, alla prossima. Tanto io farò lo stesso, fra un po' chiudo. No, comunque un giorno i vigili urbani sono scesi dove andiamo noi a Golfo Aranci, perché avevano messo i divieti di quelli, compri il cartello, compri le scritte e piazzi il cartello, uno di quelli lì senza concessione, senza niente, di quelli che posso mettere anche io senza problemi, e sono scesi i vigili urbani e ci hanno detto: lo sapete che voi qua non potete stare? Mi sorrise in faccia, gli ho detto: ecco perché, dove c'è scritto io non posso stare, su c'è il divieto, e dove? Su all'ingresso della strada c'è il divieto, gli ho detto: ma quale, quel cartello che indica che non possono entrare in campo? Sì, gli ho detto: quello è un pezzo di alluminio scritto così senza problemi, non vale a niente. E lei come fa a dire che non vale a niente? Ho detto: di quei cartelli io ne demolisco milioni all'anno. Perché lei che lavoro fa? Io, autodemolizione. Ah, autodemolizione fa. Detto, comunque quel cartello che c'è su, senza la concessione, non vale a niente. È come se io vado al cittamercato, bricco, compro il cartello, gli adesivi, mi piace il cartello come piace a me. La stessa cosa che avete fatto voi lassù. Vabbè, comunque hanno voluto i documenti e tutto quanto, per non fare un bel casino. Abbiamo dato i documenti, ci hanno fatto la contravvenzione, abbiamo passato tutta l'associazione camperisti e alla fine abbiamo vinto là, e ci hanno tolto la multa. Comunque i cartelli dopo un po' li hanno subito tolti, perché l'associazione camperisti ci pensano loro a fare tutto quanto il resto, tramite avvocati e balle varie. Sì, ma sono tipo quei cartelli che mettono, che so, nei garage, tipo posso carrabbere, se non c'è un numero di concessione è un pezzo di alluminio così appeso al muro che non vuole niente, capito? Va bene signore, dai, che devo fare due cosette fuori al volo prima che faccia buio, non voglio approfittare. Rilancio il mic a Antonio, aspetto i saluti e poi vado via. Fammi sapere comunque, dai, per quella batteria, ok? Sì, ti ho mandato anche il messaggio, comunque adesso domani chiedo, dai. Ehi, va bene, ciao. ciao ciao. Ciao Tino, ci sentiamo alle prossime, avanti Roberto. Yeah, ciao Tino, ci sentiamo alle prossime lo stesso, dai, vai Danilo. Sì, dai, adesso chiudo anche io Roberto, che è già pronto a mangiare qua. Dai, comunque, se ti iscrivi all'associazione campionisti, tipo Torres, dove siamo noi, è tutta un'altra cosa, non ti possono dire niente, se non che ci sono veramente divieti dalla legge. Comunque, sai come ti sto dicendo io, Robè, non è più rottura di scatole, perché prendi in via tutto quanto l'associazione camperisti e ci pensano loro, e tu non muovi manco un dito. Sì, è interessante, c'erano amici iscritti al camperisti Torres, che quanto ti pagano di assicurazione, dai? Oh, aspetta che te lo dico un attimino, ve lo chiedo a mia moglie. Oh, qua ci sono... I cartelli devono essere validi, perché sennò sono capuli loro, Ma tutti i cartelli, anche se c'è uno stop, una precedenza, ma comunque quello c'è scritto dietro, delibera, numero, del, eccetera, eccetera, dietro il cartello. Non si possono permettere di mettere una cosa senza esserci la delibera. Stai scherzando, stai. Casinari due bassi. Però sono perdite di tempo, perché poi devi andare alla giudice di pace e fare la cosa, la causa, aprire una causa, la vinci, però devi perdere tempo. Ma se c'è l'associazione fanno tutto loro, se ne occupano loro. Vabbè, sono 20 euro all'anno, mi ha detto mia moglie. E mentre di assicurazione quanto paghi tu? Dove sei? Vittoria, con chi sei? In via Montegrappa da Daniele, come si chiama? Sara. Sono tre assicurazioni tutte quante insieme, nella stessa cosa, però non mi ricordo quale esattamente. Io conosco da Daniele Causi. Ehi, Anto, da lui.